Nama Rupa comes before Salayasanam. Yes. Can it be understood as concept come before things in the world? I mean, concept created in the mind shape the world around you. Or it's just the other way around, that let me define Nama Rupa. So if you say that in Italian. Nama Rupa. Now I translate until here. Allora, gli stavo chiedendo se qui sul canto del Paticca Samuppada, dell'originazione dipendente, ci sta scritto che Namarupa dà origine a Salayatanam. Namarupa qui viene tradotto come nome e forma, name and forms. E Salayatanam sono the six senses, i sei organi di senso. Quindi mi stavo chiedendo se i concetti vengono prima del mondo, cioè sono i concetti nella mente che formano poi il mondo che noi percepiamo. Grosso modo la domanda è questa. Accordi, secondo le scritture, secondo l'insegnamento buddista. No, first is experience, and then the concepts come later. Prima? Prima c'è l'esperienza e dopo vengono i concetti. But why are before here? Nama is referring to the ability of the mind, which creates, imagines, etc., etc. Nama è riferito all'abilità della mente che crea le immagini e i concetti, eccetera. And Rupa refers to how the mind contacts the body. Rupa si riferisce a come la mente prende contatto con il corpo. So when the Buddha talks about the eye, he's not talking about the retina. Quando il Buddha parla di occhio, non parla della retina. He's talking about the ability to see, vision. Parla dell'abilità di vedere, del processo della visione. So from form the mind creates. Quindi dalle forme la mente crea. From the, and then he deconstructs this body and mind into the six sense bases. E dopo lui decostruisce questo corpo-mente nelle sei basi dei sensi. Because your consciousness is dependent on a sense base. Perché la coscienza, la nostra coscienza dipende dai sei sensi. So he starts with the big concept and then he slowly breaks it up for us. Quindi parte dai grossi concetti e poi piano piano li rompe, li costruisce. And in so doing we can see how it works. E in questo modo ci spiega come funziona. Okay. That's it. Yeah. Next question. Okay. I'm going to be here all night. Good enough. Good enough. How and why did you become a monk? Come è stato e perché che ti sei fatto monaco? If you go onto the website under my name, se vai sul sito sul nome suo, you'll find a biography. Si trova la biografia. Yes, I gave a talk about it. I gave a talk. Once. Yes. Una volta ha dato un discorso su questo argomento. Next one. Following the first precept means not eating meat, cioè seguire il primo precetto significa non mangiare la carne. Go, Tom, have a go. Yes. How would I know? You should have launched you with that one. Does it mean you can't eat meat? It doesn't mean that. I think that you can. In Italian? In Italian. Oh, see? Si. Yes. I know. Non credo che la prima, il primo precetto stipula che uno non si può mangiare carne, non si può direttamente uccidere un animale per mangiarlo. Credo che nel tempo di Buddha, quando andavano per gli Amsang, le mosche, non so come si dice, ricevono quello che ricevono. Credo che quando la Buddha morì di disenteria, è stata offerta un pasto molto ricco fatto di carne. Ma si può come intraprendere questo addestramento, si può cominciare a pensare che c'è tanta sofferenza per gli animali nel mondo di cibo, nel modo in cui vengono allevati, nel modo in cui vengono uccisi. E allora si porta in quella direzione di pensare seriamente sul modo in cui nutriamo, magari la scelta etica, e anche uno, se uno considera un po' l'effetto che tutto questo ha sull'ambiente, si porta verso una certa vegetarianismo o veganismo. Sì, bon. Vabbè. Oh yes, to me. Oh, I'm sorry. Oh, he's not. Who's not here? Oh, yes, no. Simon. What are you? Very quickly, what are you saying? I can't remember. The first precept doesn't say that we can't eat meat. Probably says that we shouldn't kill an animal directly to eat it. But then, if we think about the kinds of cruelty that are involved in animal farming, animal husbandry, and the way in which animals are slaughtered, the way in which the land is abused in order to provide food for the animals, then it leads you, I think, in an ethical way in the direction of vegetarianism, if not veganism. Yeah. Okay. Just one small thing. You know, if the Buddha had banned eating meat completely, it would be difficult to teach, you know, Eskimos, people who live in the desert. Se il Buddha avesse completamente proibito di mangiare la carne, sarebbe stato difficile insegnare a certe popolazioni come eschimesi o chi vive nel deserto. He was also not into idealisms. E non era nemmeno non era un idealista. Pacifism, veganism, vegetarianism. They didn't like that. Isms. Vegetarianesimo, insomma, tutti questi termini che finiscono con ideals. Sono indicano delle idee, degli ideali, e quindi a lui non piacevano. Yeah. If I know an animal has been killed for me, I can't eat the meat. Se lui sa che un animale è stato ucciso per darlo a lui, allora lui non può mangiare quella carne. It's one of my rules. Huh? Uno di mie regole. It's your personal rule? No, or no, no. The order? No, the rule, Vinaya. Ah, sì. È una regola del suo ordine, cioè sta nel Vinaya, quindi nelle regole dei monaci. Sì. Significato di citta e diversi modi di intendere mente. The meaning of citta and the different ways to understand mind. There are three words for the mind, you might say. Ci sono tre parole per la mente, per tradurre mente. Manas usually refers to how the mind contacts the senses. Manas è, si riferisce alla mente che fa contatto con i sensi. Vijnana is the part of the mind that knows. Vijnana è la parte di mente che conosce. That is, you know, there has to be a screen upon which everything arises. È come uno schermo su cui tutto insorge. And citta is what we would mean by the old word in English, soul. Soul. Anima. So it's your emotional life and your thought life. Citta si riferisce a quello che in inglese si dice come soul, cioè anima. Quindi è si riferisce alla vita emozionale and the mind. E alla mente. Sì. Sì, we've split them off, you see. Noi le dividiamo queste due cose. You know, we think of the mind as something separate from the heart. Pensiamo alla mente come qualcosa di separato dal cuore. But often in the East you might find somebody saying I think and points to the heart. Ma spesso si trova persone che dicono io penso e puntano verso il cuore. So that's the meaning of citta. Questo è il significato di citta. But as we pointed out when we were doing dependence origination, the Buddha also seems to use it to tell us what it is that experiences nirvana. Ma come abbiamo detto, parlando dell'originazione dipendente, il Buddha uses it to mean nirvana. Lo usa questa citta per usa citta per indicare ciò che fa conoscenza del nirvana. The unconditioned citta. La città non condizionata. Ok. Sì. Va bene. Yeah. Qualità attiva e passiva della consapevolezza. Mindfulness. Active and passive quality. Yeah. No, the passive quality is just the sati. La qualità passiva è sati. And the active quality is the intuition. E la qualità attiva è l'intuizione. So you say first look and then you'll see. E si dice prima guarda e poi vedrai. So if there's a scratching noise on the door. Se c'è un suono di grattare sulla porta. First you go and see. First you go and look. Prima vai a vedere. And then you see, it's the cat. E poi vedrai, è il gatto. Sì. So, first of all, there has to be receiving the information, and then the understanding of it, the grasping of it. Prima l'informazione deve essere ricevuta, e poi deve essere afferrata. So this is the quality of sati. Questa è la qualità di sati. Satipanya Center activities. That's your center. Yeah. Le attività del centro Satipanya. I left a card so you can access the website. C'è un volantino che ha lasciato lì fuori. Yeah, you can see the website. Everything is there. Everything is on the website. Okay. Gli insegnamenti del Buddha vengono definiti insights. Do Buddha teachings are Buddha teachings called insights? Well, some of them are not so much insights as just understandings. Alcuni di questi non sono proprio insights, cioè intuizioni, sono comprensioni. Like when we were doing karma, the five laws. È come quando si parlava del karma, le cinque leggi. So these are just understandings. When we talk about insight, we're really talking about in Vipassana, we're really talking about seeing those three characteristics. Quando si parla di insight in Vipassana si intende quando si vedono le tre caratteristiche. You know, cause of suffering, impermanence, not self. La causa della sofferenza, l'impermanenza e la non sofferenza. Non sé, sono le tre caratteristiche. Yeah. Can you talk about wholesome and unwholesome sexuality, Buddha's teaching, and your opinion? My opinion. What belongs to sexual misconduct other than abuse? What is a wholesome, right way of including sexuality and sex in one's life? Is sexuality a spiritual practice in Buddhism? How does a monk deal with sexual desire? For heaven's sake. We're getting very personal. Avete capito tutti o devo tradurre? Sì, can translate. Ci puoi parlare della sessualità sana e non sana? Sia negli insegnamenti di Buddha che nella tua opinione. Che cosa appartiene al un comportamento sessuale scorretto oltre all'abuso? E qual è un salutare o giusto modo di includere la sessualità e il sesso nella vita di una persona? Ed è la sessualità una pratica spirituale nel buddismo? E come si rapporta un monaco col desiderio sessuale? It's all about sex. There's very little teaching about sexuality in the scriptures. Nelle scritture c'è poco riguardo alla sessualità. Except that we should stop it. Eccetto che bisogna smettere. So, in terms of liberation, it doesn't matter what your sexual orientation is. In termini della liberazione non è importante qual è il tuo orientamento sessuale. Remember the problem is attachment, is indulgence. Il problema è nell'attaccamento e nell'indulgere. So in any loving relationship, then a romantic loving relationship, then of course sex has its place as a way of communicating deeply. Allora, naturalmente, in una relazione di amore romantico, la sessualità al suo posto rappresenta un modo di comunicare profondamente. Mm. Yeah. So there's no problem there at all. E non c'è problema, quindi. There's no problem. When it comes to celibacy. Quando si parla di celibato, come si dice in italiano? Celibato. Celibato. Mm. Then this is a renunciation both of the physical delight but also of romantic relationships. E c'è una rinuncia sia della parte fisica ma anche della parte romantica della relazione. I cannot perceive a romantic relationship without attachment. Non posso percepire una relazione romantica senza l'attaccamento. It's not possible, no? Non è possibile. No. I can't see it. So at some point in our spiritual journey, we have to let go of those particular types of relationships. E quindi a un certo punto nel nostro viaggio spirituale dobbiamo lasciare andare questo particolare tipo di relazioni. Next life. La prossima vita. There's always time. C'è sempre tempo. And of course, there is a progress if you live long enough. E c'è un progresso se tu vivi a lungo. Yes, I mean, obviously, when we're young, the sexual desire, romantic desire, is very, very strong. E naturalmente, quando sei giovane, il desiderio sessuale romantico è molto forte. By the time you're in your middle age, it should be going down. Ma quando cominci a essere di mezza età, comincia di sicuro a scendere. And maybe towards, you know, when you get older, there's a, a lack of interest in it. E quando comincia a diventare più vecchio c'è una mancanza di interesse. Maybe gets harder to perform anyway. Diventa anche più difficile farlo. Celibacy is it's trying to establish a very different relationship with other human beings. Celibato significa cercare di stabilire delle relazioni diverse con gli altri esseri umani. Yeah, to all other. Tutti gli esseri umani. Which is metta. E che è metta. Yeah, universal friendship. Amicizia universale. So we are taught to see elderly women as our grandmothers and mothers. Noi ci insegnano older than us, any women older than us as grandmothers and mothers. Noi ci insegnano a considerare le donne più vecchie come nonne o madri. And those of the same age and below as sisters. E quelle della stessa età o inferiori come sorelle. Just to answer the one about monks, the rules around sexual behavior are very, very strong. Per quanto riguarda i monaci, le regole di comportamento sessuale sono molto forti. And you can lose the robe if you have any sexual intercourse with any being, actually. Ah, e puoi anche essere you lose the robe, perdere la, può essere smonacato, diciamo, se hai un rapporto sessuale con qualsiasi persona. Yeah. Or animals. O con un animale. And if you want the exact words, it's for the monk, it is entrance into any orifice. La parola esatta per il monaco è entrare in qualsiasi orificio. To the depth. Orifice. Io dico orificio, sorry. Orificio, sono di Lucca. Orifizio, sì, comunque quella che è un buco, ecco. Basically a hole. Entrance in any orifice to the depth of a mustard seed. Ove? Mustard seed. Per la profondità di un seme di mustard. Mostarda. Yeah. No, ma è so small. Ecco. Quindi proprio. Sì. So now you know. is that it? I've answered the question. Yeah, I think so. Everything. Maybe sexual misconduct other than abuse. What can be considered sexual misconduct? Any sexual behavior which is just for oneself, just enjoying oneself, then that becomes you're using the other one, you're using the other to please yourself. Allora, come si dice in italiano, sexual misconduct si definisce comportamento sessuale scorretto. Lui lo definisce come un comportamento sessuale in cui uno usa l'altro per il proprio piacere. Anything. Quindi qualsiasi tipo di rapporto in cui si ha questa relazione. Ecco. Sì. Allora, next question is there a sign to know one has entered the stream? C'è un segno per capire che uno è uno di quelli che sono entrati nella corrente? Luisa. Stream enter. Dai. Sì, sì. Dai. No? The sign... First of all, you have to see one of the three characteristics very deeply. Prima di tutto si deve vedere one of the una delle tre caratteristiche in modo molto profondo. And three things disappear. E scompaiono tre cose. The view or the notion of a self. La vista o la nozione del sé. But not the sense of self. Ma non il senso del sé. It's very subtle. È sottile. So you've seen that the self is manufactured, it's not real. Allora, tu vedi che il self, il sé è un qualcosa che viene fatto e non è reale. But you don't lose the sense of self. Ma non perdi il senso del sé. And you don't lose that until the very end of the process, arahat. E non lo perderai fino alla fine del processo, quando uno è arahant. You no longer believe in things like rituals will actually liberate you. Non credi più nelle cose come i rituali that can liberate you. Che non ti possono. Can liberate. Ancora. Hold on, there's too much noise. What was? Is can or can't? Can't. Can't. Che non possono liberarti. I rituali non possono liberarti. Yeah, that's it. That'll do. Which doesn't mean to say that ritual doesn't have a place. E questo però non significa che i rituali non hanno un posto. So that's why we do refuges and precepts. E questo è il motivo per cui si fanno i rifugi e i precetti. Chanting, light candles. E i canti, le candele. So these are, for some people, these are just creating an atmosphere, creating an ambience. Per alcune persone questo è come creare un'atmosfera, un ambiente. But they are not. They're not going to liberate you from suffering. That's the point. Ma non ti liberano dalla sofferenza. So, for instance, there are still people in Hinduism. Nell'induismo. Who think that, you know, if they stand in the river Ganges, all their karma gets washed away. Che pensano, ci sono persone che pensano che stare dentro al fiume Gange li laverà via tutto il karma. Sì. And I think the last pope, the one before this one. Uno degli ultimi papi. Benedict, yeah. He brought back indulgences. Ha riportato le indulgenze. So the belief is that, you know, if you, if like for instance I had, you know the novena? La novena. La novena, yeah? So if you do the novena, then you have to go to heaven. You have to go where? To heaven. Ah, directly. Yeah, all the consequences of your sins are wiped out. Si dice che il Papa, probabilmente Benedetto, aveva riportato le indulgenze, quindi se tu fai una novena vai diretto in paradiso. This was true when I was a young man. Sì, questo c'era quando io ero giovane. So to make sure I did many novenas. C'era essere sicuro, ho recitato molte novene. So in Buddhist understanding it doesn't work like that. E nella concezione buddista non funziona così. There are consequences. Ci sono le conseguenze. Why did you leave Goenka? Is that it? The third one. The third one. La terza. All doubt in the Buddha's teaching is gone. All the doubt, any doubt you had about the Buddha's teaching. Tutti i dubbi che tu potresti avere nell'insegnamento buddista se ne vanno. Se ne vanno. Okay, so these are the three signs. Questi sono i tre segni entrato nella corrente. Okay. Why did you leave Goenka? Perché hai lasciato Goenka? I tried many different types of meditations, like most people do. Ho provato molti tipi di meditazione, come fa molta gente. When I ordained the Mahasi teacher was no longer coming to England. Quando io mi sono fatto monaco, l'insegnante Mahasi di Mahasi non veniva più in Inghilterra. The teacher I had in Birmingham, a Burmese monk. L'insegnante che aveva a Birmingham, che era un monaco birmano. He used to prefer this Ubakin technique. Preferiva la tecnica di Ubakin. And he knew Goenka very well. They were like close friends. Lui conosceva bene Goenka, erano come buoni amici. So I thought I would experience it. E quindi ho pensato di farne esperienza. So after I think a year or something, I went to India, to his place in India, Igatpuri. E dopo circa un anno andai a quel posto in India, che non ho capito il nome. Igatpuri. And when I came back, I thought the technique was very good. Quando sono tornato, insomma, ho pensato, la tecnica è molto buona. Yeah. But I found that they were very, how do you say it, a bit cliquish? A clique? Come si dice questo? Say it again? Cliquica. Sì, a little bit. They settari. Ho pensato che erano molto settari. Settari, ok. Like settari, sì, come settari. They didn't want anything to do with monks. Non volevano avere niente a che fare con i monaci. No. So obviously I felt that I would never be accepted. E quindi ho capito che non sarei mai stato accettato. I mean, the Ubakin technique in Burma also has monks. I mean, it's not. It's Goenka. La tecnica di Ubakin in Birmania ci sono anche dei monaci. But in the Goenka establishment, they don't participate. Ma nel sistema di Goenka no. No, indeed. So when I came back, one of the main teachers of Mahasi, Saida Upandita, was at the Vihara in Birmingham. E quando sono tornato, uno dei principali insegnanti di Mahasi, che era Saida Upandita, era al monastero Vihara in Birmingham. So I began to practice again. E allora io ho cominciato a praticare di nuovo. Yeah, I was always attracted anyway more to the Mahasi tradition. E mi sentivo più attratto dalla tradizione Mahasi. So it's the same for all of you. You'll be attracted to a particular type of meditation. È lo stesso per tutti. Uno si sente attratto di più da un particolare tipo di tradizione. Yeah. Okay. Uno stimolo, una spiegazione in più rispetto al tema dello. Una spiegazione in più rispetto al tema dello sforzo e della volontà, specialmente in quei momenti in cui sai che stai rientrando in vecchie abitudini, come rafforzare la volontà. Non riesco a capire bene il senso della domanda. Something more about effort and will. Especially in those moments in which you know that you are going back to old habits, how can you reinforce the will with power? I think some habits are very hard to overcome. Certe abitudini sono molto difficili da superare. So you just have to be very patient with ourselves. Bisogna essere molto pazienti con se stessi. You just work at it slowly. E funziona lentamente. So when you fall into an old habit, as soon as you've done that, you come out, you don't start hating yourself, you know, berating yourself. E quando rientri in una vecchia abitudine e ne ritorni fuori, non devi cominciare a odiarti. But just recognize, you know, oops. Ma riconoscere and then recommit yourself e impegnarti. Now you also, it's good to know when the temptation is greatest. È anche utile conoscere quando la tentazione è più grande. Sometimes it's the time of day. A volte un certo momento del giorno. Mm. Say drink, you see, if you're having too much drink. Per esempio bere. Mm. It could be the company you keep. E potrebbe essere la compagnia in cui stai. Could be the situation that brings up that habit. La situazione che porta quell'abitudine. Mm. So you have to renounce those things that are creating problems. Mm. E quindi devi rinunciare a queste cose che creano problemi. Mm. Until you feel you're in control. Fino a che non ti senti che sei in controllo. Ah, and then you're able to go back into that situation. E poi puoi anche tornare in quella situazione. Mm. But remember that some of these habits are deeply ingrained, you know, deeply established. Ricordate che alcune di queste abitudini sono profondamente ingranate. Mm. And to uproot them takes a long time. E quindi richiedono molto tempo per essere sradicate. Mm. But if over a period of time you see they don't have such power over you, then that's a bit of feedback, you know, that you're actually overcoming them. Ma dopo un certo periodo di tempo, se vedi che non hanno più quel, hanno perso il potere su di te, allora c'è un ritorno positivo su di te. Mm. And if you work with the worst one, e se lavori con i peggiori, then the energy, the courage, the determination you need to do that makes it easier to overcome all the rest of them. Ah, allora l'energia che e insomma l'impegno che ci devi mettere per superare i peggiori ti renderà poi più facile superare gli altri. So, go for the big one. Mm. L'amore incondizionato è uno stato estatico creato attraverso un processo o è una qualità intrinseca del Nibbana? Unconditioned love, is that an ecstasy create through a process, or is an intrinsic quality of Nibbana? Love is not an intrinsic quality of Nibbana. L'amore non è una qualità intrinseca del Nibbana. No, love arises when you're in relationship. L'amore insorge quando tu sei in una relazione. Ah. When somebody is in a inward state of Nibbana, there's no relationship. Quando uno è in uno stato di Nibbana interiore, non c'è relazione. Ah. So there is a state where a person is in Nibbana. C'è uno stato in cui una persona è dentro al Nibbana. And when they wake up or come into the world. Ma quando si svegliano o entrano nel mondo. Then the relationship is one of, you know, love, compassion, joy, etc. La relazione allora è di amore, compassione, gioia. Ah, but it doesn't slip into those, you know, attachments and all that sort of stuff. Ma non scivola dentro gli attaccamenti e quel tipo di cose. Ah, sì. Puoi parlare un po' dell'emozione della rabbia? Quale funzione hanno le emozioni? Perché possiamo, perché dobbiamo esprimerle? Soprattutto in Occidente sono molto importanti. I can't read. No. Who's the question? Consigliare. Who? Eh? Ah, allora. Vuoi leggere te? What happened for the anger? What is the motivation of the anger? Actually, you say the unsatisfaction, but I don't know if there is other things that rise this state of mind, that state. And then, what is the function of emotion? Because why we need to share, especially now in our Western society, that we are much more inside that emotion is important in art, in a relationship. Like if you go in Eastern part, there is no emotion. People are not so involved and engaged in emotional feelings. It's not so important like in our Western society. So what is it, the function of emotion and the other? Puoi parlare un po' dell'emozione della rabbia, quali funzioni hanno l'emozione, perché dobbiamo esprimerle, soprattutto da noi in Occidente, dove sono molto importanti, dobbiamo condividerle, hanno molta importanza, mentre in Oriente non è qualcosa. Anger is just an expression of what we do when we don't get what we want. La rabbia è un'espressione di quello che facciamo quando non possiamo avere quello che vogliamo. It's an expression of power, of getting what you want. È l'espressione del potere di prendersi quello che si vuole. I think it's as simple as that. È così, è semplicemente così. It's just a way of using your power to subdue somebody, to make them do what you want to do. È un modo di usare il tuo potere per sottomettere qualcuno e fargli fare quello che vuoi te. The role of emotion. Il ruolo dell'emozione. Really, it's the role of the heart. È il ruolo del cuore. So we have a direct connection with the world through our feeling of it. Allora noi abbiamo una connessione diretta con il mondo attraverso le sensazioni che abbiamo. So from those feelings and sensations we get from the world, that relationship that we have is expressed as an emotion. Allora dalle sensazioni fisiche e mentali che abbiamo dal mondo, questa relazione è espressa da un'emozione. So if you think about the Buddha, se pensi al Buddha, and all his emotional heart life is pure, e la sua heart life, the life of his heart, la sua vita del cuore emozionale era pura. Whenever he's in a situation, the heart responds to communicate. E qualsiasi la situazione, il cuore risponde per comunicare. So where there's a call for gratitude, his heart feels gratitude. It's a feeling, isn't it? Where there is a call for gratitude. Dove c'è una richiesta di gratitudine, allora il cuore sente la gratitudine. No? It's communication, no? C'è una comunicazione. Where you see somebody suffering, there's a movement of the heart towards it. It's a way of communicating. Se si sente qualcuno che soffre, c'è un movimento del cuore verso questa persona per comunicare. The fact that we in the West might show our emotions more than Eastern people. Il fatto che noi nell'Occidente dovremmo mostrare le emozioni più degli orientali. Doesn't mean that people in the Orient don't feel emotions strongly. E questo non vuol dire che gli orientali non provano forti emozioni. For instance, to show anger is to lose face. Perché, ad esempio, mostrare la rabbia è perdere la faccia. It means you're weak. It means you're weak. Ti rende debole. It's a sign of weakness. Significa che sei debole. È un segno di debolezza. It's a sign of weakness, you see. So, è un segno di debolezza in Oriente. Sì. So you lose face, come si dice? Perdi la faccia. So you lose face. So, you know, you find people, you know, are not expressing, but I feel it, huh? Trovi le persone che non la esprimono ma la sentono. And they have a different categories sometimes, I've noticed. Hanno, a volte sembra che abbiano, io ho notato che hanno differenti categorie. When I lived with my teacher in Birmingham, quando vivevo con il mio maestro a Birmingham, there was a Burmese woman who used to also lodge in the building. C'era alloggiata nello stesso edificio, c'era anche una donna di Birmania. And if you knew her, you would see that she was actually quite depressed. E lei era veramente abbastanza depressa. And one day I was having a discussion with my teacher. E una volta entrò in una discussione con il mio maestro. And he said to me, "You know, we Burmese people, we don't get depressed." E lui mi disse, sai, noi birmani non abbiamo la depressione. Ah, you see? So he has some other idea as to when people are depressed. E lui aveva un'altra idea di quando una persona è depressa. So there's a, yeah, I mean, you know. So, our emotional life is our felt life, isn't it? Felt, it's what we feel. La nostra vita emozionale è la come noi sentiamo la vita. Ah. Consider if you had no emotion whatsoever. Considera che come se tu non avessi nessuna emozione. Ah? No happiness, no felicità, non tristezza. Okay, completely dead. Completamente morto. Niente, there's nothing there. Niente. Ah. Only thinking. Thought. Solo pensare. Ah? Artificial intelligence, no? È intelligenza artificiale. Yeah. Yeah? Yeah. Is that what you think? Yeah, no, I understand you, but I don't why we need this emotion, because it's something that we are in the state of indifferent state of ah, no. When you're alone, can you say that? Yeah. Well, it's you communicate. Yeah. It's another language, human language, I should say. Yeah. But when you're on your own, say when the Buddha's on his own, he's just in a state of equanimity. Quando il Buddha è da solo è semplicemente in uno stato di equanimità. Ah, peacefulness. Pace. Ah, peacefulness. Yeah. Okay. Il notare è simile all'insegnamento del chi sono io di Ramana, non so chi sia questo, quello lì. Ramana Maharshi. Ramana Maharshi. The mental note is similar to the teaching of who am I of Ramana Maharshi. Yeah. Il notare è simile, la domanda è, il notare è simile all'insegnamento del chi sono io di Ramana, ma non lo conosco così. E non lo so. ma no, Maharishi, no. No, quello è Maharishi. Ramana, ma, insomma, no, Ramana Maharshi was a very famous teacher. He died in the 50s. Ramana Maharshi era un famoso insegnante che è morto negli anni 50. A Hindu, yeah. Mm. So the question of who am I in Buddhism is the wrong question. E nel buddismo la domanda chi sono io è sbagliata. Yes, that's right. You get a similar question in say Zen. C'è una domanda simile nello Zen. What is this? Cos'è questo? So that would be more Buddhist. quella sarebbe più buddista. So. Ah. Ecco. First stage. Okay. The back. Yes. Oh, the back. Oh, yeah. Okay. Well, we have to. I thought there was only two, but it's okay. Three actually. Okay. L'impulso alla base. We have to stop at 9 o'clock. Yes. Oof. L'impulso alla base della colonna, come il ritmo della danza, e in genere l'impulso nella vita quotidiana, se osservato e cosciente, è un atto di coscienza. Is this yours? Can you translate this? Because I can read the writing, but I cannot understand the question. Is this what? if we observe this impulse, yes. it becomes a conscious act. Can you say it in Italian? L'impulso alla base della colonna vertebrale, per esempio il ritmo della danza, faccio un esempio della danza africana, per esempio ritmata, o in generale della vita quotidiana, noi ci muoviamo in un impulso, una reazione, se osservato e diventa cosciente, questo è un atto di coscienza. Well, if you're aware of it, then you ought to have a choice as to whether you're going to do it or not. Se sei consapevole di questo, c'hai la scelta di quello che vuoi fare. Puoi parlare un po' dello Zen in generale, della differenza tra le camminate e il rapporto con le arti marziali. Can you talk about Zen in general and about the difference between the walking meditation and the relationship with martial arts? Zen is good. Lo Zen è buono. Ecco. Vedi. martial arts is a form of exercise and meditation. Le arti marziali sono una forma di esercizio e meditazione. If it's done for the purpose of insight, then like archery. Se è fatto con il proposito, con lo scopo dell'insight, come si fa nel tiro con l'arco, then it's possible to have insight. You can have insight anywhere as long as you're observing the three characteristics. Allora in questo caso è buono, si può avere l'insight con qualsiasi cosa. Finché tu osservi le tre caratteristiche. There's a book called The Art of Archery by a Dutchman, Herigel. C'è un libro sull'arte del tiro con l'arco. Sì. Lo Zen e il tiro con l'arco. Ecco. Yeah. Yeah. So his master was able to fire an arrow into the bull of the target. Into the dark. Yeah. Il maestro al buio era in grado di tirare una freccia nel centro del bersaglio. And then another arrow which actually went through that particular arrow. E poi anche un'altra freccia che andava a colpire questa. Ah. Now this would be more to do with powers, mental, physical powers, you see. Questo ha più a che fare con i poteri fisici mentali. I don't know what the insight could be. Non so quale potrebbe essere l'insight di questo. So that's it. È così. This is it. Che funzione ha il processo creativo? Qual è la differenza tra un rituale pieno sorry, I can't read. Who's that? Is it? Who's it the question? È ancora ancora gone. No, ce n'è anche un'altra dopo, falle tutte te. Ok. Italian? Quando un rituale è pieno semplicemente diventa un'abitudine, quando piano dire quando è sentito diventa una motivazione o quando diventa su un'abitudine, so che devo entrare, mi inchino, lo faccio, punto. E quando il processo creativo, se il processo creativo è solo qualcosa di statico, che crea qualcosa che svanisce o può produrre frutti più alti. Any process, whether it's intellectual or artistic, ogni processo che sia intellettuale o artistico, it depends on the purpose which will produce the effect. Dipende dallo scopo. To produce an effect. Per produrre dallo scopo che ha per produrre un effetto. So you have to ask yourself, why am I doing this? Ask yourself, why am I doing this? E quindi chiedetevi, perché lo sto facendo? Beauty or art can only be a supportive measure to the process of insight. La bellezza o l'arte può essere solamente un mezzo di supporto della produzione dell'insight. It's easier to practice meditation here rather than, say, in a marketplace. È più facile praticare la meditazione qui che, ad esempio, nella piazza del mercato. So that's the purpose of art, for the spiritual reason. Questo è lo scopo dell'arte per le ragioni spirituali. Is to create supporting conditions. È di creare condizioni che supportano. But by themselves they can't produce insight. Ma di per sé non può produrre l'insight. Un altro? No? Ce n'è un'altra? Come definire la retta azione nel confronto con i problemi complessi? Immigrazioni, ingiustizie sociali, etniche, eccetera. How do you define right action? Talking about complex problems like immigration, social injustice, ethnic injustice, and so on. Well, you can always come down to that basic platform. Puoi arrivare a questa piattaforma di base, Which was the teaching of the whole, what we call the axial age. The teaching of the axial age, just the axial age. Che noi chiamiamo l'insegnamento del. Era un periodo nella storia. Axial age. See, so there was the Buddha. Well, the Buddha, Lao Tzu, Moses, Socrates. Quando c'era Buddha, Lao Tzu, Mosè, Socrate. This was the point when morality entered into our as a basic relationship. È stato il momento in cui la moralità è entrata come la relazione di base. Ah. So the basic platform is do unto others as you would have them do unto you. E quindi la cosa di base è fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. So long as we have that as a basic platform, then even in complex problems we should be able to work our answers. E quindi quando teniamo questa piattaforma di base, anche nei problemi complessi dovremo essere capaci di tirarne fuori una risposta. I'll give you my detailed answer to these complex problems tomorrow. Vi darò le mie risposte dettagliate a questi problemi complessi domani. Il potere sembra avere una valenza intossicante, più che il desiderio sessuale. D'altra parte, il potere implica possibilità e responsabilità, ad esempio nella gestione del denaro pubblico. Quale rapporto si può avere con il potere? Power, it's all about power. Power seems to have to be an intoxicant, more than sexual desire. But on the other hand, power implies possibilities and responsibilities. For instance, talking about public money. Which relationship we can have with power? Well, it's a similar question to the one before. È simile, infatti la stessa persona. È simile la domanda a quella di prima. So power can be used for the benefit of others and it can be abused. Il potere può essere usato per il beneficio degli altri o può essere abusato. È simple. E quindi è semplice, no? I mean that's why we have so many institutions in a democracy which limits the power of people in power. E per questo nella democrazia abbiamo così tante istituzioni che limitano il potere delle persone che hanno il potere. That's why Trump is so frustrated. È per questo che Trump è così frustrato. He has the heart of a dictator, no? Lui ha le maniere del dittatore. The heart. E il cuore del dittatore. He knows best. Lui sa sempre meglio cosa fare. Next one is: cosa pensare della marijuana, la cui virtù nel sostegno a certe malattie è stato largamente dimostrata, o anche LSD prescritto in casi di depressione grave, intossicanti? That means are these really intoxicating drugs, marijuana and LSD, that have been used recently in medicine for certain illnesses or states? Yeah. The question is, are they intoxicants? Well, again, it all depends why you're using them and what the effect is. E ancora, dipende da perché li usi e che effetti hanno. The actual marijuana they use for medicine is not exactly the same as marijuana. It's something else, no? It's different. In realtà la marijuana che viene usata come medicina non è la stessa la droga, than the drug. And it's not smoked. In Italia la marijuana che si usa in medicina non è fumata. Yeah. So it's the same. Tanto per cominciare. It's the same with any drug. È lo stesso per qualsiasi droga. There was a time in the Buddhist community when somebody got depressed. C'era un periodo nella comunità buddista che quando qualcuno diventava depresso. The idea was, well, this is your karma. E l'idea era che dipendeva dal karma. And so you should suffer it. And so you should suffer it. E quindi devi soffrire. Mm, don't take any drugs. Non prendere nessuna medicina. Ah. But it's also your good karma that somebody has come up with a drug to help you with your depression. Ma si può anche pensare che un buon karma che qualcuno è venuto e ti ha dato una medicina che ti fa bene alla depressione. And if the drug actually helps you to manage your life, se, then I mean that's got to be good. Se la medicina ti aiuta a insomma padroneggiare la tua vita, va bene. I know somebody who is so-called schizophrenic. Conoscevo uno che veniva definito schizofrenico. But the drugs just keep him just on this side of sanity. Ma la medicina lo teneva giusto da questo lato dell'essere sano, insomma. And so he's able to live an ordinary life. Capace di vivere una vita normale. And create good karma in Buddhist understanding. E nella concezione buddista si creava un buon karma. So again, it's why are you taking this drug? E quindi perché prendi questa medicina o droga? And does it have benefit? It? Does it have benefit? Ha dei benefici. Ah, ecco. Yeah. Next question. Next. Qual è la più importante forma di motivazione per praticare nella tua esperienza? In your experience, what's the most important form of motivation to practice? The motivation to practice. Luisa, have a go. Ah, very good. Is that the answer? No. Bisogna tradurre alla rovescia. Nel senso che magari all'inizio uno si accorge alla meditazione per un problema, con una motivazione, non dico banale, però magari è depresso, ha avuto dei problemi familiari, oppure semplicemente si vuole provare. Poi ovviamente se si prosegue nella pratica e si va avanti, la motivazione diventa differente, quindi magari, come dire, man mano che la pratica diventa un motivo di vita, allora la motivazione è quella di raggiungere la liberazione. Magari non si raggiunge in questa vita, però c'è già, sono un seme che è stato piantato. So the motivation changes in the arc of your practice. The motivation at the beginning of your practice may be quite different from your motivation later on. So maybe in the beginning you come because you're interested or there's some problem you want to overcome, depression, problem in a relationship. But as the practice deepens, then perhaps later the motivation becomes one of liberating yourself from suffering. And even if you aren't able to go all the way, that is the seed that you want to plant. Bene. Il Buddha e la sua relazione con le divinità Hindu. The relationship of the Buddha with Hindu deities. Yeah. Essendo stato lui nel insomma che that he came from the Hindu culture, lui veniva da una cultura induista, sì. Il Buddha. So what was his relationship? He didn't deny that there were other levels of being. Lui non negò che ci sono altri livelli di esistenza. Nor did he deny that there were other powers, such as we discussed yesterday. E non, nemmeno ha negato che ci fossero anche altri poteri, come abbiamo detto ieri. But he wouldn't go into anything which was metaphysical. Ma lui non andava dentro discussioni metafisiche. So the idea of a creator God he never taught that. Lui non insegnò mai l'idea di un Dio creatore. He says he does not see a beginning to karma. Lui disse che non vedeva un inizio del karma. Which is an interesting statement, no? È una frase interessante. Mm. And everything arises dependent on something else. E tutto insorge in dipendenza di qualcos'altro. Ah. So there's no teaching about a creator God. Non c'è insegnamento riguardo a un Dio creatore. And there's no teaching beyond the experience of Nibbana. E non c'è insegnamento al di là dell'esperienza del Nibbana. No, there's no discussion as to what is the relationship of your Nibbana to mine. Non c'è discussione su quale sia la relazione tra il tuo Nibbana e il mio. There's no discussion about what happens to all these former beings who now live in a state of Nibbana. Non c'è nessuna discussione su cosa accade a quelli che erano degli esseri precedentemente e ora vivono in uno stato di Nibbana. Yeah. So there's no I think as far as the Buddha is concerned, per quanto può dire il Buddha, he's only concerned with the individual arriving at the level of no suffering. He's only concerned with the individual. Si preoccupa solo di gli individui attaining the end of suffering. Raggiungono la fine della sofferenza. Now it may be that beyond that is actually unknowable. Può essere che al di là di quello possa essere non conoscibile. Sì? Didn't he say that he didn't want to teach? He just doesn't teach. There's no a question such as is the world infinite or not? He doesn't answer. Dice, io ho chiesto se non voleva insegnarlo. Lui dice, semplicemente non l'ha mai insegnato. Se una domanda come il mondo è finito, infinito, lui non ha risposto. No. Ok. Noble silence. Ecco, sì. But I think that's something to sort of maybe accept. I think that's something that we might accept, that there will be something that is actually unknowable. E c'è qualcosa che probabilmente dobbiamo accettare, che ci sarà qualcosa che non è conoscibile. Which doesn't mean it doesn't exist. Che non significa che non esiste. Whatever it is. Qualunque cosa sia. Next one is, solo un buddhista può avere insight, only buddhists can have insight. Sì. I would have thought that, you know, if you read the spiritual literature, se voi leggete non la letteratura religiosa ma quella spirituale, I think you'll see that they seem to be saying the same thing. Sembra che dicano tutte la stessa cosa. Saint Francis said. San Francesco dice. What you are looking for. Ciò che cerchi. Is what is looking. È ciò che cerca. It's good, eh? Ciò che guarda. That's very good. But somebody said what you're seeking is seeking you. Is that the same? No. What you are looking for is what's looking. No. Quello che cerca è quel. No. Quello che cerchi è quello che cerca. È quello che cerca. Sì. Cioè, ciò che tu cerchi è colui che cerca. No, No. No, no, no. No, no, no. What? If I were to translate, I think, directly into Italian, because it comes in English, yeah? It's, what quello, eh? You are looking for, quello che cerchi, sì. Is, eh? What is looking, quello che cerca. Yes, looking for. Looking for, yeah. Yeah. Sì, è quello ecco. Che cerca. Quello che cerchi è quello che cerca. Ah. Ma quello... This is very Buddhistic. That it doesn't mean that's a human being. It's an entity. No. No, it's just a very simple thing. We're all looking for our essential nature. Stiamo tutti cercando la nostra natura essenziale. Okay, so what is it that's looking for its for essential nature? Che cos'è che cerca la natura essenziale? It's the essential nature. È la natura essenziale. It's not. It's a pun. Eh? It's a pun. It's very Buddhist anyway. Very Zen. Very good. Okay. Che cos'è il Dhamma? What's Dhamma? Well, it's just a simple question. It's just the word. Have a go. Dhamma is just the teaching. It's just the teaching. Next one. L'insegnamento. L'insegnamento. L'insegnamento. Could it be the rule of the world? Huh? The rule of the world. A Dhamma. Dhamma. Dhamma just means teaching. It just means, oh, you can transfer it as a law. The law, the law of the world. Visto che non posso portarla a casa per chiedere di ripetere tutti i discorsi, sarebbe rapimento oltre che attaccamento. Ha qualche libro da consigliare su ciò di cui lei ha parlato? Grazie. Allora, given that I can't take you home. No. To ask you to repeat all the Dhamma talks. Yes. Because it would be kidnapping. Yes. And attachment. Yes. Do you have some books to tell us about things that you talked about? Well, I don't know what's been translated into Italian. Non so cosa è stato tradotto in italiano. But I think if you put in your question into Amazon or Google, it will come up with a book. These days it's very easy. And if you recognize the author, se riconoscete l'autore, then read it. Leggetelo. Gnana Ponica Terra, yes. Che cosa offre in più sulla via spirituale la condizione di monk o nun? What's more in the condition? Talking about spiritual life, what's more in the condition of monk and nun? What is the benefits? What are the benefits compared to lay people? If you follow the rule very strictly, if you follow the rule very strictly, se segui la regola in modo molto stretto, you can't do anything else but study the Dharma and meditate. Non puoi fare altro che studiare il Dhamma e meditare. Huh. You can't buy anything, you can't cook anything, you can't do anything. Non puoi comprare nulla, non puoi cucinare nulla, non puoi fare niente. Huh. So the whole of the day is for you to use in order to deepen your spiritual life. E quindi tutto il giorno non c'è altro da fare che To deepen your approfondire la tua vita spirituale. Ah, so that's the benefit. E questo è il beneficio. Yeah. I mean, running running a meditation center and teaching and all that, of course, it supports the spiritual life. But if I wanted to become an arahat, then I would live in a forest somewhere. Anche condurre un centro di meditazione, un centro spirituale, può supportare la vita spirituale, ma se io volessi diventare arahant, forse sarebbe meglio andarsene in una foresta. Una foresta, sì. So and that's why it's just that little bit more difficult in the lay life. E questo è il motivo per cui è un po' più difficile nella vita laica. Never mind just the ordinary worries, concerns, etc., etc. of daily life. A parte le solite ordinarie preoccupazioni della vita quotidiana. The society we live in, as we were discussing yesterday, just doesn't support us. E la società in cui viviamo, come si disse ieri, non ci supporta. That's the situation. Yeah. La felicità non è nel soddisfare un desiderio, è semplice calma. Happiness is not satisfying a wish. Is it simple calmness? Say that again. Happiness is no. Happiness is. Happiness is not satisfying a desire. Happiness is not in satisfying desires. Full stop. You've understood it very well. So. I think you ought to answer that, Gaza. I do, yeah. It's very easy. Can I have the question again? Is happiness is not found in desires, correct? That's a statement. Okay. The question is it simple calmness? Is it simple calmness? Yeah. Happiness. Calmness, happiness. Is happiness a simple calmness? Yeah. Well, happiness is a very big word. È una parola molto grossa, felicità. Ah. If you ask people, you know, what do you mean by being happy? Se chiedete alla gente che significa essere felice, You'll get as many definitions as there are people. Avrete tante definizioni quante sono le persone. The one mark of of somebody who is spiritually advanced. Il vero marchio di colui che è avanzato spiritualmente is not so much happiness but contentment. Non è riguardo alla felicità ma all'appagamento. Appagamento. There was a man who complained to the Buddha that the teaching was too hard. Un uomo si lamentò col Buddha che l'insegnamento era troppo duro. And the Buddha said, yes, it is hard, but then you achieve Nibbana, you see, liberation. E il Buddha disse, sì, è duro, però dopo arrivi al Nibbana. And the man said, Nibbana, so what? E l'uomo disse, Nibbana, e allora? So he said, well, when you get to Nibbana, you are contented and with it happy. And with it happy. Buddha disse: quando arrivi al Nibbana, tu sei appagato e insieme a questo sei felice. Tutti sukkivahati. Sì? Tutti, like tutti frutti. It means sukhi. It means contented. Contented. Contented and with it happy. That's the direct translation. So. Ok? Sì, tutti succhi significa significa contento, appagato e dentro di sé e dentro a questo c'è felice. Succhi. And with it con lui felice. Felicità. Con l'appagamento c'è la felicità. Ecco. Io non sono i pensieri, non sono il corpo, non sono il respiro. Cosa sono? Ah, this is the question. Questa è la domanda. Sì. Next question. Next question. This is the question. Come si può aprire la devozione? What does it mean, aprire una devozione? Aprire la devozione? To open devotion. Eh? Che significa? I don't know. Whose question? Ah, what did you mean? Devotion about starting the God or something. Devotion. Ma to not enter in a room and do like in a church you do this and you don't feel nothing. Yeah. Open Devotion. Devotion is your heart's relationship, isn't it, to something that you find praiseworthy, to somebody even you find praiseworthy. La devozione è la tua relazione di cuore con qualcosa o qualcuno che ritieni meritevole di preghiera. Ah. Eh? Eh? Praiseworthy. Praiseworthy. Is worthy of praise. Is prayer? No. No. Praise. No. Scusate. Di apprezzamento. Ah, apprezzamento. That's one. It's somebody whom you would like, who is a model, whom you would like to be like. È qualcuno che è un modello e che tu vorresti essere così. Ah. So, you know, you get people devoted to pop fans and, you know, to pop idols. And e trovi persone che sono devote agli idoli pop. Ah. So there's a, I don't know where, I mean, that sort of devotion probably doesn't take you too far. What? That sort of devotion doesn't take you very okay. far. Che questo tipo di devozione probabilmente non ti porta molto lontano. But it's devotion in the spiritual life is it can include a sense of gratitude. Nella vita spirituale la devozione include il senso di gratitudine. And a desire to follow what the teacher is saying. E il desiderio di seguire quello che ha detto l'insegnante. It doesn't. I think it oversteps the mark when you have a relationship of devotion where you're no longer questioning the teacher. Penso che si passa il segno quando la tua relazione col maestro significa che tu non lo metti mai in dubbio. You know, no matter how much devotion you have to a teacher, there should still remain a certain level of discrimination, eh? Qualunque sia la relazione che hai col maestro, deve rimanere un livello di non so se discriminazione è la parola giusta in italiano. Obiettività. Quella forse, obiettività. Obiettività. Sariputta, who was the chief disciple of the Buddha. Sariputta era il capo discepolo del Buddha. He once said to the Buddha something like una volta disse al Buddha qualcosa. You are the most enlightened person in the world, there's nobody like you, you are the supreme, you are the best, something like that, eh? Qualcosa del tipo. Eh? No, ha detto. Allora, Sariputta ha detto una volta qualcosa del tipo, ha detto al Buddha, tu sei il miglior maestro che ci sia, non c'è nessuno meglio di te, una cosa così. And the Buddha said to him, how do you know? E il Buddha gli disse, come fai a saperlo? Sì? Meditare non è mera concentrazione, non è semplice psicoterapia, è consapevolezza. Here again there is a statement. Meditation is not concentration, only pure concentration, and is not simple psychotherapy. No. Is it mindfulness? How this question has arisen when somebody has worked with me for a week. Come fa a insorgere questa domanda quando uno ha lavorato con me per una settimana? Vipassana is an investigative mindfulness. La vipassana è una consapevolezza investigativa. Ecco, next one. That's all. We've got time, you see. It's 9 o'clock. It's three more questions. Three more questions. All right. Bante, pratichi la meditazione camminata quotidianamente? Do you practice walking meditation every day? No. No. Next question. I will try to summarize. Bring back to, okay. It's talking about substances like ayahuasca, mushrooms, LSD, and says that an exam show brain patterns similar to those of monks who have been meditating for 20 years or more. Si parla di sostanze come l'ayahuasca, i funghi e l'LSD, e ci sono state delle esperienze che hanno visto che ci sono dei pattern mentali simili a quelli dei monaci che hanno meditato per più di 20 anni. Qual è il tuo punto di vista su queste sostanze che non sono, che non danno dipendenza? Potrebbero aiutarci a sviluppare un non sé più forte? What's your opinion about these substances which are non-addictive? Could it help us, could these substances help us to develop a stronger non-self? The answer to that, I don't know. Io non so. But just because the brain waves are similar, it doesn't tell you what's actually happening in the mind. Dice, solo il fatto che le onde mentali registrate in queste esperienze sono simili non ti dice che cosa sta succedendo nella mente di queste persone. You see, this is the distinction between science and scientism. Questa è la distinzione tra la scienza e lo scientismo. There's seemingly no connection between the chemicals and electrical signals of the brain and what is actually being experienced inwardly by the person. E non c'è una relazione tra i segni elettrici e chimici del funzionamento del cervello e quello che è realmente percepito nel cervello di quella persona. In other words, it's impossible to see the connection between the objective world of matter and the subjective world of personal experience. Quindi, in altre parole, è impossibile avere la relazione tra il mondo oggettivo della materia e quello soggettivo dell'esperienza personale. For those of you who know, this is known as the hard question. È questa è conosciuta come una questione difficile. Una domanda difficile. If you read the literature, you'll see there's no way you can describe that connection. If you read the literature. Se tu leggi la letteratura riguardo a questo, non c'è modo di capire. There was a very interesting essay written many years ago. C'era un saggio scritto parecchi anni fa, interessante. If you want to read it. Se volete leggerlo. You have to put it in Google, eh? Dovete metterlo in Google. What does it feel like to be a bat? Cosa si prova a essere un pipistrello? It's a very interesting essay. È molto interessante. Ecco, adesso. Sorry, I wrote the question. There's a piece missing. There are many people who have taken LSD in prescribed environments, and their subjective experience seems to be very similar to, you know, those who say that they are at one with everything and there is no evil. Yeah. So I just wonder, what's your opinion about taking these substances in order to jumpstart or give me or give us a little taste of this non-self? You know, would you say it's a shortcut that is not worth going through? You know, because now LSD doesn't have the bad stigma from the 70s anymore. There's a new book out just now by somebody called Michael Pollan, who is a credible source. And it's very interesting what he says. So a lot of people who have taken these substances all mention this oneness and things they can't describe properly nowadays, but it's, you know, it gives them the impression of being everything and one, or they also say, I cannot tell you exactly what it is. Yeah. So it seems like a boundless experience. Yeah. Which do you want to just say that very short in Italian? Just the core of it. Sorry. Okay, praticamente la domanda è se prendere queste sostanze può darci l'opportunità di darci il sapore dell'essere tutto uno con il mondo e non avere un ego, perché ci sono degli studi fatti proprio recentemente con pazienti che hanno usato queste sostanze. Sembra che tutti descrivono soggettivamente questa esperienza così, non solo con MRI scans. Yeah. The experience of being at one with the universe is a romantic experience. L'esperienza di essere uno è un'esperienza, un tutt'uno con l'universo, è un'esperienza romantica. There's nothing of that nature in the Buddhist scriptures. Non c'è niente sulla natura nelle scritture buddiste. In Buddhist understanding, you have absorbed into the world. Nella concezione buddista, tu sei assorbito nel mondo. Ah, what world? Quale mondo? The world you're creating. Il mondo che stai creando. Ah, there's nothing outside your head. Non c'è niente al di fuori della tua testa. Ah. So, people who say that they were at one with the universe are saying that they were at one with their heads. Le persone che dicono che erano une con l'universo stanno dicendo in realtà che erano une con la loro testa. Ah. But there are heightened sensitivities that you can have. There are heightened sensitivities. Sensitivity? Sì, sensibilità. Ah, ci sono delle... heightened. Sì, intensificato, Gautam, sei... Ci può avere queste sensibilità intensificati. Yes. Tinta. You can have it. Such as... actually communicating with animals. E come comunicare con gli animali. I know one or two people who had their first spiritual experience by taking magic mushrooms. Conosco un paio di persone che hanno avuto la prima esperienza spirituale prendendo funghi, funghi magici cosiddetti. But I don't think you can get much further by taking drugs. Ma non credo che si può andare molto più in là prendendo questi. No, I think so. The last one. Can it be wholesome to interrupt the contact with a friend, family member, when you realize that the communication always ends in misunderstandings and so on? Può essere salutare interrompere il contatto con un amico o un membro della famiglia quando capisci che tutta la comunicazione finisce sempre nel non capirsi, insomma, il misunderstanding. Well, you can always go for group therapy. Puoi sempre andare a fare terapia di gruppo. Ah. And if that doesn't work, well. E se quella non funziona. That's yes, if a relationship is unmendable, then why have it? Se la relazione sembra che non si possa riparare, allora perché continuare? Ah, but you can always send them goodwill, eh? Li potete comunque sempre mandare la benevolenza. Is it finished? Yeah, yeah. Thank you. Thanks. Yeah. Yeah, thank you. Very good. Bene, molto bene. Molto bene. So unfortunately, it's 9:15. What I suggest is that you just take a small break. Io suggerisco che prendiate una piccola pausa. And then if you come back and put the cushions back in a way that is facing the Buddha here. E poi quando tornate mettete i cuscini in modo che guardano il Buddha, cioè come erano prima, insomma, as they were before. Yeah. Huh? Sorry? We have communication at the end of the two. That's tomorrow, no? You could do it now if you want. Give me the time when I make it. After the ceremony. This evening? No, tomorrow. Is no, you want this evening. You could do it this evening if you want, when they come back. Before the ceremony. No, the ceremony this evening. No, tomorrow morning. A cerimonia domattina. Okay. Tomorrow morning? This evening, okay. This evening. So, yes, take a little break and then come back. Okay. I've got to get you to...